orologi della Sardegna, i Setual dalle parti di Milano. Cristiano Bocci, Criminal Resistance da Genova. Lucia Cagliazzi in Arte Lupsi da Udine, Paolo qui da Roma. Ecco qua, stiamo affrontando le ultime cose e andiamo ad iniziare con, scusate il gioco di parole, con la fine di questa retrospettiva riguardante Texan Moon. Ci siamo soffermati su questo grande fenomeno degli anni soprattutto 80, di origine californiana ma operante spesso e volentieri qui in Europa, soprattutto in Belgio, Francia, eccetera, eccetera. E questa retrospettiva va a toccare di nuovo Ship of Fools, forse uno degli album più sottovalutati, ma che conteneva secondo me anche delle perle molto interessanti, pianismo notturno e soffuso e molto intimista, insomma delle pagine sicuramente da annoverare. E quindi non a caso ci ascoltiamo Music for Piano più Guitar, An Afternoon with Hen e The Train, forse il brano più famoso di questo album. Thank you. sit and talk, my friends and I. We're passing through the autumn forest, passing by a pond. Fire burning. Well, now I think I'm in the painting, yeah. This is not a dream. This is the beginning of a long ride. Oh, Ennesimo passaggio per i Tuxedo Moon da questo Ship of Fools, un vecchio lavoro del 1986 dove era abbastanza chiara l'impronta jazz, molto presente proprio nel DNA di tutti i componenti di questo pezzo di storia degli anni 80 soprattutto, dove hanno dato il meglio di loro stessi. Un gruppo, ripeto, di origine californiana, Steven Brown, Peter Principal. Qui erano anche aggiunti come ospiti Ivan Georgiev, Bruce Gedulding era assente, Blaine Reninger che sarebbe rientrato più tardi nel gruppo. Salutiamo dunque Lucia qui a Roma, Antonella anch'essa da qui, dalla capitale. Invece in Val d'Aosta, dal suo paesino, Jean-Claude Bertot, che salutiamo. Non andiamo avanti e ci spostiamo in Francia. Un progetto decisamente sotterraneo che porta il nome di Spirit, lo diciamo proprio alla francese, sperando si possa dire, ma credo che sia scritto peraltro con la Y, Spirit, presumo dunque Spirit in francese. Vediamo un po'. Thank you. L'album è omonimo, però esce per un'etichetta italiana, la Seahorse Recordings di Paolo Messere, etichetta siciliana, non so esattamente la città, mi andrò ad informare, ma in questa occasione, e sto parlando del 2018, hanno stampato qui in Italia questo lavoro di questo progetto di Tolon in Francia. Spiriti si muovono a metà tra decadence, non raggiungendo però quei livelli, e si sa che è difficile andare ad avvicinarsi soltanto un pochettino ai decadence, e in parte pure alla tradizione gothic rock dei Sisters of Mercy. Ho scelto la 3 tracce, quelle diciamo della seconda parte dell'album, leggermente più epico e tribale. Enton Amour, Liver e Amethyst Heaven, ecco le 3 tracce per Spirit dal brano dall'album omonimo. Una novità dunque, diciamo, relativa del 2018, una novità quantomeno per questo spazio di Disorder, progetto francese Spirit. Dietro il quale pseudonimo si dovrebbe nascondere Jean-Luc Rousseau, come vedo qui dalla pagina Facebook del gruppo stesso. Un disco che portava il loro stesso nome e che veniva inciso in questa occasione attraverso la Seahorse Recordings, etichetta di Siracusa, come ci ha fatto scoprire Isa. Dove lo spirito medievaleggiante, epico, aleggia direi abbastanza in maniera importante nelle note di Spirit. Salutiamo Eloquence Recycle, del omonimo progetto del quale ascolteremo naturalmente qualcosa tra qualche minuto. Mentre noi arriviamo proprio qui in Italia attraverso un altro tormentone tra virgolette che porta il nome di Kill Your Boyfriend, che si sono esibiti qui a Roma con ottimo riscontro mercoledì scorso. È da poco uscito un singolo dal nome Elizabeth attraverso la Deft Records di Alessandra D'Alesio. Quindi noi invece torniamo indietro di qualche annetto, arriviamo nel 2015 e abbiamo qui uno split, quattro tracce diviso a metà con New Candies, e ci ascoltiamo invece ovviamente le tracce di Kill Your Boyfriend, esattamente Isaac e Nicholas, confermando la loro cosiddetta fisima nel intitolare molte tracce con nomi personali.